di selezione in ascolto per via dei filtri, per via di tante cose, già lo sai. È bella, è accettabile, è forte, è amplificata, c'è un pochino di reverbero, ti ripeto, però va bene, non dispiace il processore. Sì, no, io c'è sempre la porta, ce l'ho qua dietro la porta questo qua, e comincia a strappare. Se te l'ho detto che avevi di abbassare, ma insomma, io ti chiedo di abbassare, tu non abbassi. Allora, adesso ho tolto il reverbero, Guarda, sono entrato tramite il telefono, l'ho tolto tramite il telefono, proprio l'ho eliminato e posso anche, diciamo, schiarirla, vedi, adesso lo sto togliendo piano piano, invece di usare il tablet sto usando il telefonino. Il progresso, guarda, va bene così? Sì, ci devi buttare anche il telefonino però, perché sta interferendo. Se questo è il progresso. Si sentiva più. Il telefonino sta interferendo, Poco fa era meglio la modulazione. Ma Antonio, l'avete... Antu, stai addormentando, tu lo so. Dimmi tutto. Noi qua facciamo sempre delle prove. Lo so che ti annoiamo, non è che, però questa è la radio. No, ma non c'è problema. Non c'è nessun problema qua. Sta strappando, Fra. No, ma perché... aspetta, ho dovuto alzare il volume perché Antonio ha la modulazione è molto bassa. Prova, capi? Sta strappando adesso. No, fa un passaggio lungo. Sta strappando adesso. No, ti ho detto lungo, non veloce. Niente, volevo solo chiederti se la radio va a strappare, perché Franco mi ha detto che era meglio poco fa, quindi se è troppo amplificata vado ad abbassare adesso, a parte gli scherzi, o togliere il processore o a rimettere il reverbero, quello che volete voi, non lo so. Allora, a mio parere sì, sento anche i polmoni che stanno respirando, se vuoi abbassare magari a Franco fai solo che piacere. Perfetto, bassa, ecco, abbiamo abbassato. Le senti le macchine passando fuori dal cancello adesso, Fra? No, ho sentito quella là che stava drittando appena appena in curva alla rotatoria, però era. No, ho aperto la porta del terrazzo e ti sento da lì, ti sento. Sì. E allora va bene. No, vabbè, adesso a parte ho eliminato quegli effetti, va meglio senza quegli effetti. Certo che va meglio, prova a abbassare ancora un po' l'amplificazione. Dai, poi facciamo una prova in AM che voglio vedere una cosa veloce, poi se volete ripassare in FM va bene uguale. Va, l'amplificazione non l'ho toccata, ho tolto il processore, vedi un pochino. Molla così. Bravo, adesso sei una bomba. Una scheggia, va bene. Vuoi passare in AM? Mi dovete dare il tempo di un attimo di regolare il carrier però, Passate, vi seguo. Perché il carrier? Cosa stai combinando? Mattino, perché devo portare il carrier proprio all'interno dell'LC, quindi io seguo la prassi della funzionalità della radio. Ah, ok, va bene. Un attimino, giusto per un controllo e verifica delle Mickey Green di poc'anzi, Oh, vediamo un pochino, però io in AM la mia situazione è questa, la mia situazione è questa perché mi piace di più. Com'è Franco? Già proprio sei entrato, come parlando, hai toccato un tasto, l'ho sentito, e fa aumentato un po' l'amplificazione. Certo, allora, adesso è a 50. Questa è la mia modulazione solitamente in AM. Ha cambiato qualcosa? È molto forte, molto forte. Però è sempre difficile. No, l'ho abbassata perché poco fa ce l'avevo a 50, adesso è a 23, quindi voglio dire. qui, non lo so, tu magari conosci un pochino più la, la l'intensità del Mechigain. Aspetta un attimino, perché io devo regolare qua. Va bene, cosa ne dite in questa situazione? Bello. Si sente. Ma Franco, cosa ne ti disturba? No, diciamo che come dentro la tamburlana. Sì. Va bene, fra. Comunque la mia prova era questa. Allora, la mia prova era questa, che io sto parlando circa 40 cm dal mic con il Mechigain a 23. Poc'anzi però, eccolo qua, poc'anzi ce l'avevo a 50, solo voi mi potete dire se ha cambiato o meno. Fammi i due passaggi, da uno all'altro. Ce l'ho fatto, cioè questo è 50, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è 23. Questo è l'altro passaggio, diciamo, dai. Questo è l'altro passaggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è 23. E adesso qua l'ho messo a 50, per farvi capire un pochino com'è, come l'ho messo, dai. Allora, 23 è un po' più bassa la modulazione, è chiara. A 50 è più forte, però è chiara lo stesso. Sì, ma dico, quei 10 dB che ha aumentato in FM, ci sono anche qua oppure no? No, qua non li vedo. Eccolo qua, guarda, questo è 50, guarda, anzi, poc'anzi l'ho messo anche a 100. Eccolo qua. Poc'anzi l'ho messo anche a 100, forse è troppo alto così, vero? No, questo è lo stesso. Però questi dB di aumento di segnale qua io non li vedo. Ragazzi, io vi saluto, buono, non ce la faccio più, sono stanchissimo. Ok, buonanotte a tutti, ci sentiamo domani. Ciao Anto, ciao, buonanotte, buon riposo, va bene, vai. Ciao tu, buon riposo, buon tutto, dai, ce ne ascoltiamo. Allora ti va via. Sì, ciao Anto, buonanotte, dai, buonanotte, buon riposo, buona giornata per domani. Ce la riascoltiamo alle prossime. Ciao. Avanti Tino, non so se la ragione ha migliorato adesso. Sì, si risposta a Mike, così, è troppo vicino. Allora, così va al 100% il Mechigain, Gabi, mi interessa questo un attimino, giusto per. Così al 100%. Così invece al 23 come solitamente lo stavo utilizzando. Ha cambiato qualcosa? Al 23 ha sparito un po', eh. Al 23 ha sparito un pochino, fra. Cosa dici? Secondo me al 23 ha sparito molto ed è la radio molto più accettabile. Sì, gli ho detto che al 23 avete preso abbassato un po' la radio, però è chiarito come modulazione, sono più bella. Ok, guardate così un attimino, guarda un po', cioè troppo bassa così, vero? No, così è alta. Cioè fa la cosa al contrario, non riesco a capire, ecco perché ve lo sto chiedendo. Io sono a 10, ha aumentato la modulazione, è vero ragazzi? Thank you. sì, però aspetta un attimo, adesso troppo, ma no, adesso per sapere quel fatto lì, adesso l'ho rimesso a quanto è? A 23 lo lasciamo. Dai, quello bisogna aumentarlo quando si è o in banda o in FM, si aumenta di dB e di radio, però sta. Sicuramente io non la conosco quella tua radio, però se tu mi hai detto che hai ammazzato a 10 e sta aumentata la radio, vuol dire che hai fatto il contrario. No, mi guarda, lo dico subito, adesso sono 23, 1, 2, 3, 4, 5, te lo sto abbassando, adesso l'ho messo a 10, 1, 2, 3, 4, 5. No, adesso non ho fatto nessuna differenza. Adesso è a 0, addirittura, questo è a 0, 0, lo portiamo, adesso è a 10, mentre invece adesso lo sto portando a 23. A 23 è molto più forte. Ma no, non lo so, vabbè. Ha avuto effetto contrario. Poi lo so, mi figli. Io con la radio tua non la conosco neanche. Io mi ho avuto sempre questo. No, vabbè, ma è giusto per vederlo io quando vai in FM, per dire lo alzi e non distorce, per giunta migliora. Io adesso perché ho il processore fra, adesso per dire l'ho tolto e vedi che cambia molto. Nel fare il passaggio se lo innesco nuovamente vedi la differenza. Sì, quello sì, il processore aumenta. Anche io adesso ho inserito qua il processore, il M io lo uso sempre. Va bene, grazie adesso. Gabi, cos'è combinato? Riprendi Gabi che dicevo che fa modulare. Ormai ha cambiato adesso la radio? Ha cambiato, sì, nuovamente come di prima. Ce l'avevo prima, senza amplificazione. No, l'amplificazione ce l'hai, e hai anche un po' di alternata. No, hai un po' di alternata sotto. Alternata. Non lo so. No. Leggera, ma la sento. Dovrebbe essere l'alimentatore, ragazzi, ma c'è vento. La conto l'alimentatore. Perché dentro l'alimentatore, questa con la senti. Non è tutto. Va bene, comunque lascia così che la cosa è bella. Non lo so. Faccio vedere con Luke, guarda se cambia. No. Non ti so che dire. Purtroppo è così. Io posso abbassare solo il macchinino. Posso abbassare il macchinino e vedere se l'altro. Se l'altro va. Che brutto quando innesca, porca miseria. Ma prova che cosa, questi inneschi? Mi è passata l'alternata. Vai. Vabbè, c'è qualche rumore di sottofondo, ma non guasta, no, già va bene. No, poi lo sto facendo perché non so anche l'amplificazione. No, lascia così l'amplificazione, già va bene. Hai rumore di sottofondo, leggero. Ma lo posso abbassare anche il mic in, non ho problemi. Io posso anche prendere e metterlo così alle, diciamo, alla terza tacchetta, però non sale di cosa, di LC. Non vedo che sale l'LC, adesso vedo che sta lavorando come quando lo metto a 3/4 e diciamo è alle 10:10. Sì, infatti, perché eri in cantina. È un garage. Stai prendendo la macchina, ho capito. Adesso ho aumentato. E mettici un chiodo adesso. Li metto là, li metto il coso, il di componente. mi metto un bel po' di bicomponenti adesso, vai Franco, riprendi. Non ti preoccupare, allora ti posso anche una prima. Oh, no, fra, come c'era in un pranzo che abbiamo fatto, c'era anche un dottore, no, un farmacista. Non mi ha detto, vabbè, ma ricordo, portato ce l'hai l'induttore. Dobbiamo fare altre cose, lui no, però l'ha chiamato l'induttore e va bene uguale. Un morsetto di me sopra. Sì, ragazzi, io devo prepararmi un sacco di roba ancora, dai. Non so che se... lascio fare così com'è, che va bene. Vorrei fare delle prove con lo 450, però non so se l'abbiamo fatto o meno, se ti sei interessato. No, no, quelle ce le conserviamo a... se ne hai voglia a venerdì notte, o sabato notte, dai, facciamo una cosa... facciamo una cosa del genere, oggi non ne ho voglia, perché mi ha già, sono già un po' stifato da questa storia, perché la usavo sempre a mezzogiorno l'amplificazione, adesso invece ce l'ho alle 10 meno 10, comunque i corrispondenti siete voi, se voi mi sentite bene così, la lasciamo così. Ah, per me va bene, per me va bene, ti ripeto, poi AM è poi usuale, si dice, sì, c'è usuale, non mi ricordo se si dice così, vabbè, si può anche, aiutami. Non lo so, mi siete sovramodulati, non ho sentito, non è all'altro. Quindi sono forte, cazzo, sono forte. Ma certo che sei forte, non te la grigio. Ah, e ho solo pochi watt, che... Oh, 10 watt sto uscendo io, 10 watt. Sì. No, volevo dire, puoi migliorare, capi? Puoi usare qualcosa in più in AM. Cosa posso usare? No, non lo so. Cosa posso usare? Io più che aumentare il metro, io non posso fare. Sto usando il mio, metto 60 così e fatto. E poi metto così e fa ancora più schifo. Allora, vediamo un po'. È un po' perdo il mito, verrà. Allora, da 500, così, a 50 cambia qualcosa? 50 è un pochino più forte. Sì? Alla metà anche a pieno ferro, ci lascia andare di studiare, lui è la diversa da poi. No, a 50 è più forte. Gioco di più la macone. Allora, così ce la conto, mi no, Franco, no, per buttare dalla finestra ti chiamo, vieni e te lo prendi, non ti preoccupare. Lo metto, non lo butto, lo metto pure al cancello, te lo dico, quando lo butto, quando decido di prendere di risparmiare, te lo dico. Comunque ho usato un pochino ancora il MacBook, Sì, già va bene, lascia così. Che c'è in bocca quello grandicumio, quello nero, però bisogna prenderlo. Oh sì, la giudizio, non che poi la paghi la giudizio, poi la fila si va a cancello. Lo so. Va bene, dai. L'abbiamo usata anche in AM stanotte, anche AM. Oh, io. Ragazzi, tu mi faccio un altro passaggio e poi chiudo le trasmissioni e ce la riascoltiamo domani. Boh, non sta viaggiando questa cosa. Devo capire il motivo. Non sta viaggiando, mai fra. Cazzo. Io invece vi lascio perché hanno un giorno, allora è lui abituato il mio famiglia, però ho cercato un po'. Ma ti riprendi? Guarda, io da qui lascio un attimo di giustizia. sentendo? Sì. Allora avevo l'antenna. Questa è la quarta antenna. No, è perché stavo chiamando, gente a Franco, l'altro digestivo, magari. No, magari. No, no, questa è un'altra radio, questa è un'altra radio. Sì. Addirittura, troppo forte? Abbassiamo, guarda un pochino, ha migliorato. E allora lasciamo così. Questo è il Lincoln, lo volevo provare anche adesso, va. Ma tu vuoi sapere troppe cose? Guarda, ti ho chiesto solo il microfono, ti ho chiesto la radio. Il microfono del Mida Alan 45. Guarda, va lì. Ti ho chiesto solo il microfono, se la radio già me la resta lì. Esatto. Però sì, ti fa il... Come ti posso dire? Ti fa la... La modulazione sembra che ti stai confessando. In che senso? Aspetta, fammi capire. Molto robotica è, nostra. Allora aspetta. Vediamo un attimino se cambia qualcosa. Aspetta, 1, 2, 3, prova. Guarda a vedere un po' se ha cambiato. No. Ma a me non piace. Vabbè, sto regolando il mixer. Guarda un po'. Adesso è strappato, sta strappando. Maria. Aspetta, guarda un po', 1, 2, 3, prova. Molla la così, potrebbe andare. Vai. No, non mi piace, potrebbe. Guarda bene, dai. No, non mi dovete fare contento. Posso migliorare? Sì, devi migliorare. Così ti voglio, duro, deciso e cosa devo fare? Hai troppe tonalità alte, non vai a strappare sulle tonalità alte. Ecco qua, ti ho accontentato, l'ho abbassato. Vuoi che l'abbassi ancora di più? Sì. Ora, 1, 2, 3, prova. Hai già migliorato un pochino. Eccolo qua, questo dovrebbe essere il suo? Alza l'amplificazione un po'. Alzata, 1, 2, 3, prova microfonica. Bravo, la dici. È bellissima, Luigi. Addirittura bellissima. Va bene, comunque ho il tono e il volume a mezzogiorno. Il volume, il tono, lo devi mettere, il tono di quella radio, l'avevamo messo a 3, delle 25. A 3, avanti, così a 3. E il volume a mezzogiorno. Alta amplificazione. L'ho alzata ancora di un'attacca, eh? Ok, vai, metti il tono a 4. Il tono a 4, 1, 2, 3, 4, posso alzare di amplificazione. No, metti il tono a 20, metti il tono a 5. Questo è il tono a 5, e come lo fa qua praticamente? Vabbè, è franco, com'è? Sì, come ce l'ho io le mie 25, il tono a 5, con l'amplificazione a 7, 8, per esempio. Io ce l'ho a 6, ce l'ho a 6, aspetta, giusto per fare una cosa, ok? Sì, questo è a 6, tra il volume è a 6. Che distanza si dà il microfono, sì? 50 centimetri. E provo a mettertelo vicino a vedere, appena una prova e basta, poi ti metti comodo. Che brutto. Beh, sono a 10 centimetri ormai, con la scogliosi. Ma cambia, fra. E cambia, sì. Cambierà anche, ma c'ho la scogliosi. Ti fai una mensola e te lo metti vicino a dove usare la radio. Porca miseria, ti ha migliorato la modulazione al 50%, questa è la migliorata. Sì, avevi effetto camera, quello che sentivamo noi, Franco. Era un effetto camera che gli stava dando la troppa lontananza dalla capsula. Sì, purtroppo è così. Va bene, guarda un pochino se è migliorato ora invece. Non cosa hai fatto? Ha aumentato l'amplificazione? No, mi sono avvicinato io. Sembra, è proprio il senso di vicinanza. Si sentiva che eri lontano. Allora, io assolutamente parlo a questa distanza qua, con questo microfono qua. L'amplificazione è al 6 e il tono è a 5. Ok, metti l'amplificazione a 5 e mettilo a 10 cm a vedere. No, no, no, deve essere lui che deve far parte di me, non io di parte di lui. Non ti prende regolazione. Sì, non prende regolazione quel microfono con quella radio da lontano. Ce lo butto? No, non lo buttare, perché intanto tu sei pieno di gente nei cassonetti. Però quel microfono, quella capsula lì, non prende regolazione se te lo metti lontano, capito? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Così sei anche troppo vicino. Per poco me lo bacio. Così sono a 10 cm dal mare, ma è scomodissimo, Gavino, capisci a me? Non lo so che è scomodo, però quel microfono con quella radio ha bisogno di quella distanza. C'è poco da prendere da girare intorno. Quel microfono ha bisogno di quella distanza, non quella radio. Bene, Meda, va bene, dai. Comunque, regolato così va bene? Certo che va bene, però anche prova a metterlo anche a 20 cm, però 50 cm prende troppo la fotocamera. Sì, allora, facciamo una cosa, giusto per, ok? Cancelliamo tutto, aspetta. Poi lo ripetiamo. Guarda un pochino così, ha cambiato qualcosa? Così sembra che stia parlando con un megafono. Troppo forte. Ecco qua. Aspetta, guarda così, si è cambiato. Un po' meglio, sì. Cosa hai fatto? Va meglio? Sono a 20 cm dal mic, eh? Va bene, così va bene. Metti tu in assia, vedete, sì? Ci sono già i tonersi. Ti posso accontentare a 7, ecco qua. Prova, fai passaggio a 7. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, siamo a una distanza di 20 cm. Va bene anche a 7. Mentre invece il volume è a 6,5. Non vanno bene, sì. L'importante è che non vuole molto lontano, perché ti prende la fotocamera e non riesce a fare nessuna regolazione. Perfetto. Un'altra cosa, aspetta un attimino. Mi dai un controllo di segnale anche? Guarda un po'. 9,40, che cavolo a fare? 9,40, caspita. Eccolo qua. Qua siamo con ola. Circa 10 watt, dai. 9. Frate, risulta? No, ma c'è l'amplificatore inserito. No, che amplificatore? Non è un amplificatore, ho alzato solo il watt. Li posso alzare ancora di più, guarda. Solo che magari non va in positivo. Eccolo qua. Com'è? Allora, non è che era il numero 10, ma io stavo dicendo a Gavino che c'era l'amplificatore inserito. Ah, aspetta, allora abbasso il watt. Adesso sono con picchi positivi, vero Gavino? Sì, io ho l'amplificatore inserito qua. Sto dicendo, stai ricevendo tu con l'amplificatore inserito. Sì, ho l'amplificatore inserito, sono io adesso. Sono l'amplificatore, l'antenna con la EP spento. Se accendo la EP me lo ammazza. Certo, è per quello che ti arriva 9,40. Io sono sempre con l'amplificatore, cioè con l'IP spento, io sono sempre così. Prova a spegnerlo più a vedere quanto ti arriva. A me mi arriva 9,10. L'hai spento? Guarda un po', guarda, ti faccio un passaggio. Da 1, aspetta, eh. Eccolo qua. Ora, così sono i watt dell'apparato. E così sono gli altri watt. Ma da 9,18 con i watt dell'apparato a 9,9 9.30, a 9.30, col secondo passaggio, con l'IP inserito, cioè io nello schermo c'ho la scritta IP. Se lo tolgo con l'amplificatore attaccato arrivo a 9.40. Bene, bene, bene. Ma è giusto per 9.40. Sempre con i picchi positivi però, vero? Ora, ora, perché se invece faccio così, sono fissi, eh? Ah, ecco, vabbè, va bene così, giusto? Sì, va benissimo. Va benissimo. Faccio vedere. Non mi fa viaggiando bene le 5, eh. Va bene ragazzi, io me ne ho preparato la roba per domani, se sono domani mi viene male prepararla, me l'ho preparata proprio stanotte. E siccome mia moglie mi ha fatto una pasta, cioè una piadetta per forno, io penso che domani un pezzettino me lo porto. E fai bene. E fai bene a portata, perché la... è importante, ma il giudizio sul proprio lavoro è importante che non ti ingolfi. No, io guarda, oggi addirittura ho mangiato una trappola del fave ieri, favette con dei pezzettini di carne, non ho mangiato neanche una giapponina, però poi le favette mi hanno degustato, diciamo. E oggi, giusto così, la rimanenza del fuoco di ieri, ho dovuto abbattere. E è stato bene, è stato bene. Va bene, anch'io chiudo la trasmissione, dai. Capo, tu cosa fai? No, io mi sto qua se non lavoro la mattina. Non è figocco, è cosa nuova, mi sono rompendo. Va bene, dai. Ciao. Ciao Gabrino, buonanotte e ce ne ascoltiamo. Ciao ciao. Ciao, portati le cuffie nel letto e lasciati le cuffie che ogni tanto ti faccio la chiamata. Non essere così asociale, no. E non vuole passare la sassa e non si vuole mettere le cuffie. Poi io riesci e sono tu, esci. Ciao Franco, ciao Tino. Ce la ascoltiamo domani. Ascoltiamo domani. Buonanotte a tutti e due e buona giornata per domani. Ciao ciao. Ok, l'ultima prova, guardi. L'ultima prova. Ma so cosa ho fatto adesso. Ha cambiato qualcosa? Sei saturo. Sono saturo, aspetta. Allora, se lo metto così, a mezzogiorno ha cambiato qualcosa? Sei saturo. E se lo metto così invece normale, vero? Sì. Ma non vuoi questo qua? Allora, qua. Allora. Scusa, eh. Allora, questo è l'RF Power. Ok? Oh. Mentre invece... Aspetta che faccio una cosa. Ma con caso. Oh, oh. Allora, SWRK dovrebbe essere arrivato, giusto? Perché non mi dà? No, se lo fa VRK sono le stazionarie, ti calcola le stazionarie. Ah, e perché quando lo aumento va in saturazione allora? Non lo so. Perché sta aumentando, dipende, quello che devi portare, il non so con che pomello devi portare l'affare a rosso dello Svizzera e tu vai solo per VR Power e poi ti dovrebbe dare le stazionarie che hai. No, questo è sicuramente qualche tastino e adesso non ho voglia di cercarlo. Va bene, comunque del RF Power invece sono esatto. Perfetto, dai, lasciamo così. Yes. Io mi trattengo un attimino, mi guardo questa spuglia della LC che non mi sta salendo, come dico dico io, ma forse non mi sta salendo come dico io, mi sta facendo un po'. Ti saluto qua, ciao Fra. Allora, hai toccato il carrier? Ho toccato il carrier, l'ho portato come lo porto sempre, a 10 ampere di assorbimento. I PVR sono sempre gli stessi, il Mickey Gain l'ho toccato? Mickey Gain non l'ho toccato, Mickey Gain non l'ho toccato. Non lo so, aspetta guarda quanti ampere sta dando. Dieci tondi tondi, però prima, quando io prova radio, prima quando io andavo a modo mi saliva l'LC a mi saliva il coso, il spiccio, l'amperometro mi dava 12 ampere, 12 ampere 2 e... 10 ampere la, per i picchi positivi dell'LC in alimentazione, io parlo dell'amperometro in alimentazione, mi lavora passa, capito? Cioè a volte mi lavora, a volte no. Sì. Mentre se io lavoro seguendo il cardio, no? Faccio andare solo il carrier, mi baso solo col carrier senza basarmi sull'alimentatore, io sono così, eccolo qua dentro l'LC, guarda a vedere che sta cambiando, ha cambiato questo passaggio del carrier. No, va bene, però allora io sono dentro l'LC e mi sono regolato tramite il carrier. Non conto quello che stai dicendo tu, 10 ampere, perché non so cosa, come lo stai facendo tu. E io sto guardando l'alimentatore qui, perché ho l'amperometro e poi mi accorgo quando lui va in picchi positivi in trasmissione, quindi la lascio così. E mi tornavano i conti, perché stava viaggiando, ha sempre viaggiato così. Forse devo farla girare appena, devo farla girare un po' di più, ma devo farla. Non lo so, io ho l'LC pieno, adesso per dire vado come scala di... stazionale non ne ho, ora. Basta così, va bene così, ma la tengo dove c'è la stazionale, però ogni tanto controllo anche la LC, ma sto lavorando dai 50 in su, Sì, anche io. Ma per esempio io ho tanto pianta. La lancetta, diciamo, del PVR che va dai 50 a modulare dai 50 ai 100, capito? E il metiglio, diciamo, l'LC è dentro, proprio dentro la soglia rossa. Anch'io sto modulando così. E il microfono è 10-10. Sì. Però sembra che non sia la radio già sembra che stia andando, sembra che sia che è il microfono che lo sta fingendo, capito? No, sta andando. Faccio una prova, aspetta. Oh. Sta cambiando qualche cosa per caso, David? Cosa hai toccato? E dimmi se ha cambiato. Positiva, da 9.30 a 9.40. Aspetta. Ora. Guarda se ha cambiato qualche cosa. Ora. No, sì. 9.38 a 9.40. Bene, aspetta un attimino. E così? Ha cambiato qualcosa? Nulla? Nulla, segnale sempre lo stesso. E la radio uguale. No, vabbè, non mi ricordavo cos'era il delay. No, vabbè, il delay è quando vai in coso, in banda, sì, quando vai in banda. A cosa serve? Serve per prendere e darti sempre la tonalità di voce, capito? Per non farla passare, non farla alzare. Ma io sono sempre a 1. Sì, anch'io ce l'ho sempre a 0, diciamo, dai. Non lo uso. Quello è. Adesso lo provo, Va bene, capito? Dai, io devo mollare perché devo prepararmi per la roba lì e ancora per mangiare il cane che mi stava bussando lui, perché è in punizione ancora, è in punizione, sta dormendo fuori, legato, così impara, adesso mi ha bussato la porta per dire bene, ma non mi fai entrare, no, tu hai fatto l'omonello, dormi fuori. Loro sono già dentro, sì, niente, oggi non ho me, sono tanti muri. cancello, venivano, lui ammazzato. E sta bene, lasciato in punizione, almeno capisce non ci deve andare. Sì, poi se sabato facciamo quel lavoro lì, allora lo lascio libero, se no continuerà a rimanere legato e che mi rompere palline, perché stamattina ho trovato la sorpresa, ho dovuto pulire prima di andare al lavoro, però purtroppo è così, se non si può muovere, quello è. Sì, lo facciamo sabato, già pronto il garage, già sentato. Andò a Bex, dai, vabbù, capì, va, credimi, mi fa piacere rimanere, però sono stanco e poi devo prepararmi il lancio per domani, perché sennò domattina mi viene difficile. Sì, ma anche io mi tocco il campo, sì, non è che mi rimane in radio. Dai, ce l'ascoltiamo domani. Dai, buonanotte e buona giornata per domani, buon tutto, ciao. Vabbè, adesso anzi le lascio tutte quante accese, così almeno stanotte si caricano un po' i condensatori. Va bene, ciao, buonanotte. E ciao, sì, buonanotte, a domani.